una crociata elettoralistica o per coprire appunto i problemi anche di carattere giudiziario che ha la Lega in questa settimana, perché strombazzare la guerra alla droga e l'emergenza droga in conferenza stampa e come unica strategia di lotta è quella di attaccare negozi che vendono prodotti in cui droga non ce n'è, in un paese normale sarebbe una farsa, una barzelletta. Qua in Italia siamo costretti, voi giornalisti e noi anche operatori legali del settore, così a doverci confrontare con una barzelletta fondamentalmente. È anche uscito il decreto poi, perché insomma deve anche dimostrare il ministro degli interni di essere una persona molto efficiente, e l'abbiamo letto, è uscito ieri notte. È qualcosa di abbastanza ridicolo, di una leggerezza assoluta, a parte gli assunti da cui parte, che sono sbagliate. Dice che i comitati provinciali dell'ordine e sicurezza pubblica mappino per controlli i negozi che vendono cannabis light e facciano controlli in ordine alle normative igienico-sanitarie, di sicurezza, cioè con qualunque negozio dovrebbe essere controllato, eccetera. Quindi da tutto questo gran casino non è uscito nulla, se non andare a controllare se ci sono gli orari esposti del negozio, se vi è l'estintore dell'antincendio e cosettine di questo genere. Si era già sentita per esempio un caso simile, un'altra crociata sempre di Salvini, era stata un po' di tempo fa quella contro i negozi islamici, per così dire, che appunto aveva portato allo stesso invito a controllarli più spesso. Diciamo, questa ossessione poi per i controlli, questa un po' criminalizzazione o comunque ghettizzazione di un settore con controlli ripetuti, chiudere, poi ha il termine che utilizza di più, chiudere, chiudiamo i porti, chiudiamo i negozi islamici, chiudiamo, adesso sigilliamo i negozi della canapa light, il termine chiudere è quello che sta, diciamo, che più utilizza Salvini, e poi non chiude un bel niente oltretutto. Per fortuna, diciamo, speriamo, però appunto la domanda era, per esempio a Torino hanno già annullato la fiera in vista perché buona parte degli espositori si erano tirati indietro. Insomma, potrebbe avere comunque, se il fondamento delle accuse non è reali, comunque delle conseguenze reali poi questa nuova crociata di Salvini? Ecco, esatto, e questo è esattamente il punto, cioè creare del terrorismo e diffondere delle false informazioni porta sicuramente a delle ripercussioni negative sull'intero settore economico, che è un settore economico abbastanza importante, quello che abbiamo contribuito a costruire in questi due anni. Si parla di almeno 1000 negozi che vendono prodotti, principalmente prodotti derivati dalla canapa, almeno 2000 aziende agricole, spesso a condizione giovanile, che producono canapa e infiorescenze. Quindi sì, ci sono ripercussioni sicuramente sul commercio legale di cannabis legale, questo è certo, ma è anche, non lo so, potrebbe anche essere considerabile sconfortante il fatto che un esponente importante delle istituzioni si occupi, anziché di fare il suo lavoro di ministro contro la criminalità, contro il terrorismo, eccetera, si occupi di infastidire un certo numero, parliamo di migliaia di persone, certo numero di persone che fanno la loro normale attività di intrapresa secondo le leggi dello Stato italiano. Ecco, a proposito di questo nuovo settore economico appunto che è nato in questi anni, oggi per esempio Repubblica titolava, parlando di uno studio secondo cui con l'apertura dei canapa shop è calato lo spaccio del 14% e il fatturato illecito ha perso 100 milioni, stimava Repubblica. Ti chiederei di commentare anche questi dati. Allora, questo è uno studio dell'Università di York, fatto da 3 ricercatori italiani che appunto sono ricercatori là dell'anno scorso. Noi l'abbiamo intercettato parecchi mesi fa, 6 mesi fa per l'esattezza, ci siamo impegnati noi a tradurlo in italiano oltretutto, e è il dato l'anello mancante, l'elemento mancante della narrazione tenuta in questi due anni sulla cannabis light. Allora, si è detto in passato come appunto non sia droga perché ahimè non c'è il THC, come vi siano presenti altri cannabinoidi buoni per la salute umana, abbiamo parlato dell'impatto economico e quindi la nascita di questo mercato, abbiamo riscontrato come non vi sia mai stato segnalato un caso di abuso oltretutto di queste sostanze, quindi della canapa industriale, abbiamo raccontato la storia della canapa italiana italiana, dove noi ci andiamo a innestare. Abbiamo raccontato le regole di coltivazione e buone pratiche per la coltivazione. Hanno firmato un protocollo le principali associazioni di categoria agricola sulle buone pratiche di coltivazione della canapa per dare un prodotto sicuro per la salute umana. Ecco, tutto questo. Mancava la relazione tra questo nuovo fenomeno e il mercato nero. Grazie ai ricercatori dell'Università di York sappiamo oggi che la cannabis light è antimafia, almeno per un 14%. La nostra lotta, diciamo, in questo caso è una lotta contro la mafia e contro la criminalità. Noi la facciamo e studi indipendenti e ricercatori indipendenti lo dimostrano, l'hanno studiato e lo dicono. Il ministro Salvini, deputato alla lotta antimafia, che cosa sta facendo? Ma soprattutto se la sente davvero di regalare un 14% del proprio fatturato, restituirlo alle mafie? Questa è la domanda che dovrebbe farsi e dovrebbero farsi anche l'opinione pubblica, i cittadini e gli elettori italiani. In realtà quando il dibattito, diciamo, su questo tema era un pochino più progressista e avanzato di questo momento, sempre nello stesso senso ci si chiedeva anche se uno dei temi a favore della liberalizzazione non fosse proprio quello di sottrarre questo mercato alle mafie. Oltre allo studio dell'Università di York, ricordiamo come ogni sei mesi le istituzioni statali degli Stati Uniti in cui la cannabis è legale, rendono pubblici ovviamente i propri dati. I dipartimenti della sicurezza dello Stato dell'Oregon, Colorado e Washington, dove la legalizzazione l'hanno applicata dal 2014 o dal 2016 l'Oregon, dimostrano come vi sia, con la legalizzazione della marijuana, quindi quella col THC per capirci, vi sia un decremento della criminalità legata allo spaccio del 75% nei primi sei mesi da quando la marijuana diventa legale. 75% in meno, si può facilmente immaginarlo nella vita quotidiana cosa significa. Non ci sono più gli spacciatori alla montagnola e davanti alla stazione, non ci sono più gli spacciatori davanti alle scuole, che è un'altra ossessione di Salvini. Io nella mia carriera scolastica non li ho mai visti, forse me ne dispiaccio anche, però ecco, vuol dire far sparire 7 spacciatori su 10 in 6 mesi, altro che andare a sigillare i negozi della cannabis legale uno a uno e siamo soltanto un migliaio. 7 spacciatori su 10 con la legalizzazione della marijuana verrebbero a scomparire. Diciamo. Domani a Bologna, alla Galleria Millennium, dalle 18 ci saranno delle conversazioni sulla legalizzazione della cannabis, dialoghi del piacere si chiama, e anch'io partecipo, e sarà il primo momento di dichiarazioni di carne ed ossa, ecco, a Salvini. E si parlerà proprio di questi, dei dati, la ricerca del piacere, che negli Stati Uniti è principio costituzionale, possiamo dire, la ricerca del piacere e la legalizzazione della marijuana. Tornando invece alla storia che tu prima citavi, italiana, rispetto alla cannabis, intanto un punto è quello che nel suo proclama, diciamo, quello che ha fatto il ministro Salvini è una cosa che non è nuova in Italia, da cui deriva, diciamo, la particolare forma di proibizionismo italiano, ovvero quella di chiamare marijuana quello che marijuana non è, cioè la canapa, perché lui per esempio la parola canapa non la usa mai. Diciamo, quello dell'Italia è stato anche un caso di lotta proprio alla pianta in sé, è stato un proibizionismo particolare. Certo, se posso chiosare prima di rispondere, anche parlare di marijuana quando si parla di lotta alla droga, ormai anche la relazione scientifica dell'OMS chiede alle Nazioni Unite di declassificare la marijuana rispetto alle sostanze effettivamente pericolose. Quindi dall'altra parte è anche bizzarro come in una conferenza stampa tutta impostata sulla lotta alla droga non sia mai stata citata la parola eroina, cocaina, policonsumo, abuso di sostanze, ma soltanto canapa e canapa shop. Insomma, questo è un po' il problema. Sì, ovvio, si gioca con la malafede e si gioca con le parole. Dipingere una cosa per ciò che non è, è parte di una strategia di comunicazione che si basa sul nulla, non sui dati scientifici. Buono, bello, il fatto che la maggior parte delle testate giornalistiche, anche voi l'hai citato prima e mi fa molto piacere, abbiate elencato dati, numeri inoppugnabili, anche quelli del contrasto alla criminalità grazie alla al mercato della cannabis light. Ecco, un confronto sui dati, sulle evidenze scientifiche, ma anche sulle esperienze di legalizzazione che stanno avvenendo in giro per il mondo. Stati Uniti e Canada sono un esempio. Ricordiamoci come il Lussemburgo fra 2 anni legalizzerà la marijuana. Il ministro della salute l'ha ribadito la settimana scorsa ed è nel programma di governo. Il Lussemburgo è un tiro di schioppo da noi ed è dentro l'Unione Europea, ricordiamocelo. Quindi mai si riesce ad avere un dialogo, chiamiamolo, su dati e esperienze concrete con il proibizionista di turno, sia esso il presidente di un comitato di quartiere, sia esso l'occupante del Viminale. Sì, ecco, diciamo, poi una cosa che forse manca quasi sempre in questi dibattiti è quello del confrontarsi con chi ha un'esperienza reale di questo mondo, di questa realtà e di quello di cui si sta parlando. Per esempio, Salvini ha associato anche, diciamo, il tema del proibizionismo con quello invece della liberalizzazione della prostituzione. In questo senso, i movimenti delle sex workers, per esempio, sono anni che chiedono di essere ascoltate loro per quanto riguarda come ci si dovrebbe regolare con il sex work. Forse lo stesso dovrebbe valere anche per quella che è la liberalizzazione. Assolutamente. E se posso, ricordo come Pia Covre, cioè la presidente del Comitato per i diritti civili delle prostitute, sarà con me domani a Bologna alla Galleria Millennium, anche lei a parlare appunto di diritti civili, appunto sulla questione del sesso. Sì, è così. E invece Salvini, prima di questa conferenza stampa, che gli sta ritornando indietro, diciamo così, ha incontrato il MOIGE, questo fantomatico comitato di genitori cattolici che sono tutto il giorno davanti alla televisione e fanno i censori delle parole, dei comportamenti che appunto passano attraverso la televisione. L'associazione cattolica dei genitori è una roba che soltanto in Italia forse abbiamo, e che venga questa ascoltata e presa seriamente in considerazione dalle istituzioni di un paese laico e civile occidentale, oltretutto, è una cosa strana. Un'ultima domanda, visto che comunque una parte importante di questo dibattito verte sullo scontro, diciamo, tra Movimento 5 Stelle e Lega su queste posizioni, ti chiederei anche se qualcuno, uno degli esponenti da una o dall'altra delle parti, diciamo, di questi partner di governo in lite, si è mai rivolto nel chiedere dati o nel chiedere supporto o informazioni per le proprie proposte di legge anche a voi o comunque a chi appunto questo mercato lo ha aperto come te? Sì, no, noi abbiamo, con la vecchia legislatura avevamo contatti e rapporti con una quindicina di parlamentari, un po' di tutti gli schieramenti, quelli un po' aperti, diciamo, quindi togliamo Fratelli d'Italia, Lega e poco altro. Con questa legislatura così strana e bislacca, no, i rapporti con parlamentari del Movimento 5 Stelle ci sono, ma proprio per questo, come l'hai giustamente detto tu, improntato sulla condivisione di dati e informazioni. Quindi il senatore Airola, è giusto citarlo perché segue questa questione dall'inizio, è uno dei punti di contatto. Mantero, presto Villarosa, che è sottosegretario allo sviluppo economico, entreremo in contatto, diciamo, e ha già, pare in queste ore, stia prendendo una posizione pubblica sulla questione della cannabis light. Anche i portavoce della ministra Grillo, nell'autunno abbiamo avuto contatti, abbiamo cambiato, meglio, consegnato informazioni. Per cui c'è, il problema però è questo, che rispetto al passato si portano pur dei dati, eccetera, e poi comunque restano tutti un po' silenti, tutti un po' subiscono il bullismo di Salvini, sembrano quasi tutti prigionieri o salviniano. Io non lo so, si potrebbe anche staccare la spina un po' prima rispetto a quando accadrà naturalmente a un governo del genere, soprattutto perché il Movimento 5 Stelle, ricordiamolo agli elettori dei 5 Stelle soprattutto, firmarono e sottoscrissero il testo di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione della cannabis soltanto 2 anni fa, ed è il ministro Fraccaro che lascia nel cassetto della Camera dei Deputati, oltre al presidente Fico, il testo di legge di iniziativa popolare legalizzemo.it, firmato, sottoscritto da 67.000 persone che chiedono la legalizzazione, un testo di legge di iniziativa popolare che non vogliono discutere perché hanno paura. Quindi c'è una responsabilità politica oggettiva del Movimento 5 Stelle al governo, se è la sola voce salviniana e reazionaria quella che esce sulle droghe e sulle sostanze, insieme al suo sodale Fontana, ovviamente.